Quando dico che ti amo, credi a me, è la pura sacrosanta verità. Fino a ieri sono stato uno che si era sempre divertito e niente più. Adesso no, non sono più così. Questa volta giuro che è veramente amore, non barretta alla gente, credi a me. Quando dico che ti amo, quando dico che ti amo, è la pura sacrosanta verità. Adesso no, non sono più così. Questa volta giuro che è veramente amore, non barretta alla gente, credi a me. Quando dico che ti amo, quando dico che ti amo, è la pura sacrosanta verità. Quando dico che ti amo, credi a me. Quando dico che ti amo, quando dico che ti amo, è la pura sacrosanta verità. È la pura sacrosanta verità. La verità. La verità.